U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi riapriamo il dossier Dieselgate, lo scandalo che si è abbattuto sul mercato dell'auto come un ciclone. Un anno fa in America, Volkswagen ammetteva di aver intenzionalmente installato un software in grado di truccare i test sulle emissioni di 11 milioni di vetture. Oggi siamo al capitolo risarcimenti e responsabilità. La società tedesca ha infatti accettato di rimborsare i consumatori statunitensi, ma si è rifiutata invece di farlo nei confronti dei consumatori europei. Negli USA, Volkswagen si è impegnata a sborsare 15 miliardi di dollari per restituire o riparare circa 480.000 vetture e per indennizzare i singoli proprietari, fino a $10.000 per auto. In Europa, invece, si è sempre rifiutata, anche perché in Europa la procedura per ottenere risarcimenti è più difficile che negli Stati Uniti. Né la Commissione né le autorità nazionali hanno il diritto di imporre pacchetti di compensazioni a un'azienda. E il Parlamento? Gli eurodeputati hanno iniziato ad indagare con una nuova commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico. Il mandato di un anno è ufficialmente iniziato sotto la guida dell'eurodeputata belga Katrien Van Brempt. Molti consumatori europei si sentono traditi, non solo per via dello scandalo Volkswagen, ma anche perché sono presenti limiti di emissione relativi ai veicoli Euro 5 ed Euro 6 votati nel 2007, ormai quasi 10 anni fa. E il fatto che il contesto di guida reale è presente solo su carta. Le modalità con cui vengono effettuati i test di laboratorio non hanno nulla a che fare con il contesto di guida reale. Ovviamente non sapevamo che la situazione fosse così grave e non sapevamo che fosse in atto una truffa. Ovviamente non lo sapevano, dicono, ma delle domande ci sono. Perché l'Europa non ha scoperto gli strumenti di elusione e denunciato i continui attriti fra le autorità nazionali, gli enti di controllo e i produttori di automobili in Europa? Perché gli organi regolatori europei non hanno controllato a dovere le auto? E perché i test continuano a essere avvolti in un'inutile segretezza rispetto agli Stati Uniti? Tutte queste domande saranno affrontate in sede di commissione d'inchiesta. Non ci occuperemo solo dell'implementazione a livello europeo, a ciò che ha fatto e non ha fatto la Commissione europea, ma anche a livello degli Stati membri e delle autorità nazionali. Nel mentre, la commissione d'inchiesta è al lavoro con esiti incerti. Una cosa è certa: se includessero indennizi da parte della Volkswagen agli automobilisti europei nell'ordine di quelli per cui la casa si è impegnata a pagare negli USA, significherebbero un vero tracollo. Negli USA, infatti, le auto irregolari sono un po' più di 500.000. In Europa sono oltre 8 milioni. Si salverà Volkswagen? U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.